effettivamente una sentenza storica. La mia voce tradisce la commozione in questo momento. Io sono fiera di essere il segretario dell'Associazione Luca Coscioni, di essere l'avvocato che insieme a un collegio ampio di giuristi ha assistito Marco Cappato in questa disobbedienza civile senza cui non saremmo mai arrivati a questo risultato. Bisogna ringraziare il coraggio di Fabiano, di Pier Giorgio Welby, di tutti quei protagonisti che in questi anni hanno portato fuori la loro vita, il loro amore per la vita e la loro sofferenza con la scelta di non soffrire più, come decidevano loro. Questa decisione odierna ci rende tutti felici e grazie anche a noi dell'Associazione Luca Coscioni oggi in Italia gli italiani sono più liberi. I giudici hanno fatto l'ennesimo richiamo, diciamo, alla politica per legiferare in materia. Voi lo chiedete da tempo. Come dovrebbe essere una legge sul fine vita, secondo voi? Dopo questo anticipo di motivazioni di sentenze che abbiamo conosciuto ieri sera con il comunicato della Corte Costituzionale, sappiamo che il reato di aiuto al suicidio rimane nel nostro paese, ma non è punibile nel momento in cui c'è l'aiuto al suicidio di chi sia determinato a togliersi la vita in uno stato di malattia irreversibile con gravi sofferenze e con la presenza di trattamenti vitali. Quindi c'è un bel perimetro definito e c'è un ancoraggio con la legge 219 per quello che deve essere la verifica medica in questi casi. Oggi la politica non può fare quello che ha fatto fino ad oggi, cioè voltarsi dall'altro lato e decidere di non avere volontà politica nel legiferare, ma dovrà emanare una legge sulla base della decisione della Corte Costituzionale, che non potrà discostarsi dalla decisione stessa. Aspettiamo naturalmente i tempi della pubblicazione della sentenza per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a questa decisione, ma era una decisione anticipata già 11 mesi fa e il Parlamento ha perso anche l'occasione fino ad oggi di avere una vittoria, quella di cambiare lo stato dei rapporti tra Corte Costituzionale e legislatore. La Corte non si sostituisce al legislatore. La Corte interviene per tutelare delle libertà fondamentali, in questo caso è liberi fino alla fine, non il diritto al suicidio, il diritto alla morte, è il diritto e la libertà di scegliere una modalità diversa di congedarsi dalla vita in uno stato di sofferenza estrema. Nel nostro paese oggi possiamo fare testamento biologico, rifiutare i trattamenti sanitari, accedere giustamente alle cure palliative, alla sedazione profonda, ma non si può chiedere l'assunzione di un farmaco letale. In questo caso la persona lo potrà fare e avrà l'ultima parola per cambiare idea fino all'ultimo momento. C'è già qualcuno che evoca l'obiezione di coscienza. Ma nel nostro paese vige un principio: il medico, con il consenso del paziente, opera le opportune scelte in materia terapeutica. Qui al medico è chiesto solo di rispettare la volontà del paziente.